Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica dal soundcheck di Radio 24, esattamente dal Groove Master Studio. Buonasera da Gegè Telesforo e da Francesco Tromba. Ciao a tutti. Vorrei avvisare subito i naviganti di Radio 24, gli appassionati di musica, e in particolare vorrei avvisare mio padre, che segue tutti gli appuntamenti del soundcheck, e il suo amico Riccardo De Filippo, che questa sera la puntata è estrema. Sì, musicalmente, no? Per la loro formazione musicale, che di solito prevede come dire, una bella base di blues, molto swing, belle voci e gli standard di jazz. Ecco, tutto questo questa sera non ci sarà. Sì, abbandoneremo abbastanza anche la parte un po' più melodica del jazz, che in alcuni brani non è proprio presente. Però questo è il nostro lavoro, caro Francesco. Noi dobbiamo ogni tanto spingere sull'acceleratore, dobbiamo aprire dei nuovi percorsi e dei nuovi sentieri. Perlomeno questa è la musica che i musicisti della nuova generazione stanno praticando da diversi anni, e quindi ogni tanto anche qui al soundcheck dobbiamo frequentarla, se non altro per informazione. Sì, anche comunque per presentare e rappresentare quella parte di pubblico che alla fine poi ai concerti ci va. Perché ad esempio ai concerti di Dave Douglas, di Donny McCaslin, c'è comunque tanta gente, non vabbè, sono però vuoti, così per dire. Scopri le carte. Vabbè, tanto dai, abbiamo già pubblicato la scaletta su Twitter, su Facebook. Hai ragione, hai ragione. Questa è una buona abitudine. Ci sta premiando questa cosa. Sono tutti molto contenti di vedere poi pubblicati i nomi degli artisti, e gli artisti stessi ci ritwittano e ci ringraziano. Sì, anche perché comunque invece di stare lì con, magari sei in macchina e guidi, stare lì con Shazam rischiando di fare anche qualche incidente, invece tu sai che alla fine della puntata te lo puoi comunque ritrovare sempre sui social. La scaletta. Fino a quando non sarà ripristinato il servizio del podcast, per il quale continuiamo ad avere delle lamentele, però abbiamo spiegato più volte che un programma, un podcast senza la musica, per un programma come il soundcheck non avrebbe proprio senso. Non ha senso, proprio perché comunque noi poi facciamo dei riferimenti ovviamente a quegli artisti, a quel brano, a quel tipo di musica, e poi non ascolti neanche 20 secondi di musica, è finita. Allora, visto che i brani di oggi sono anche abbastanza corposi proprio come durate, cosa tipica dell'ambiente del jazz contemporaneo, anche se gli artisti che presentiamo oggi si muovono come sempre a cavallo fra ambienti sonori diversi, come per esempio questa band nuova di Rob Dope. Li abbiamo presentati ieri però con uno dei brani forse più accattivanti dell'album, RC and the Grits. Chi sono? Loro praticamente potremmo dire sono la band di Erika Badu, perché hanno suonato, esatto, quasi tutti con lei. Sono attivi, molto attivi in Texas, sono quasi tutti texani e vengono da Dallas la maggior parte. Loro sono RC, ovvero Reese Williams, che suona le tastiere e canta, Cleon Edwards alla batteria, Tyrone Lockett alle percussioni, Braylon Lacey al basso, Claudia Melton che canta, Jan Bourne che fa le drum machine. Allora, eccoli qui, RC and the Grits. L'album si intitola The Feel, il brano è Lessons. Mi piacciono tantissimo le scelte musicali di RC and the Grits qui al soundcheck di Radio 24, dal nuovo album The Feel per Rope Dope Records. Sono lì a New York e gli amici di Rope Dope Records, che ringrazio anche per la pubblicazione del progetto Fans Low Ride, per il quale stiamo continuando a lavorare. Sai che faremo una tournée come Fans Low Ride? Ah sì, quando? Sì, naturalmente partiremo dall'Italia, dovrebbe essere intorno a fine marzo, primi di aprile. Ah, bello, ma ci saranno anche tutti i guest. Ci saranno anche i guest americani. Non tutti, perché alcuni sono impegnati in quel periodo, però sicuramente ci sarà Joanna Titters come voce solista femminile. Bellissimo, allora. Grande cosa, sono molto contento. Torniamo a RC and the Grits, c'è un altro brano che vi vogliamo presentare. Questo a me piace tantissimo, c'ha la sua bella complessità. Loro vabbè sono veramente fortissimi, c'hanno una carica funk R&B veramente importante. Feathers qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Li abbiamo visti a Roma qualche settimana fa, album nuovissimo per loro, Black Focus, sono Youssef Kamal, ovvero Youssef e Kamal, potremmo sì, esatto. anche dire, giusto? Loro si chiamano Youssef Dayes e Kamal Williams. Praticamente tutto nasce da una serata per Boiler Room a Londra, tutto nasce, parte dalla batteria. Perché appunto la batteria che suona Youssef Dayes ha una base molto afro, ci sono dei ritmi molto afro, e da lì parte tutto, nel senso che lui ha chiesto a Kamal Williams di aiutarlo in una di queste serate. Il progetto nasce proprio così, quasi per caso. Quindi anche discograficamente hanno lavorato prima sui groove ritmici proposti da Kamal. Sì, esatto. Da Kamal, poi Youssef ha fatto. No, da Youssef. Scusa. Da Youssef, scusami, poi Kamal ha fatto il resto. Fatto sta che si sono accoppiati artisticamente parlando e vanno in giro proprio sotto il nome di Youssef Kamal. Hanno suonato a Roma al Monk. Sì. E oggi noi ve li presentiamo. Devo dire la verità, li abbiamo presentati ieri, proprio in chiusura di puntata. Sì, abbiamo ascoltato un brano ieri. E il loro sound è molto particolare, nel senso che cercano di unire tante cose che apparentemente non sono proprio vicinissime, nel senso loro partono proprio dal percorso di Robert Glasper o di Kamasi Washington, si sente. Però recuperano anche il sound alla Herbie Hancock, quello un po' più acid, anche alla Mavis New Orchestra, poi ci sono anche delle tastiere simili al Monk, proprio quelle percussioni quasi riproposte sulla tastiera. Sì, è anche interessante da vedere dal vivo come se la cavano questi due ragazzi, e tra l'altro oggi diventa anche più facile avere le segnalazioni per quanto riguarda i concerti, perché Spotify ci sta dando una mano. Sì, negli Stati Uniti è stato lanciato questo servizio per gli utenti di Spotify, nel senso che vengono segnalati i concerti in base a quello che tu ascolti, alla musica che tu ascolti, cioè l'algoritmo praticamente è lo stesso, è molto simile ai suggerimenti musicali che ti danno, no? Tu magari ascolti Herbie Hancock e ti suggerisce un altro artista simile. A questo è stata accoppiata. Segnala dove Herbie Hancock si esibisce prossimamente, una specie di band is in town. Esatto, però ha un algoritmo diverso, nel senso che non ti segnala solo ed esclusivamente quell'artista che tu ascolti, ma anche gli artisti simili che si muovono nel raggio della tua città. Un po' quello che succede quando vai su AllMusic oppure anche su YouTube, no? Sì. E questo ovviamente viene previsto come un grosso aumento per sia per gli ascolti, ma sia anche per scoprire appunto delle nuove band che magari tu non conosci, però hanno il suono simile a una band che tu conosci, e vai a vederli dal vivo. E invece noi questo musicista lo conosciamo bene, io l'ho visto dal vivo diverse volte in organici diversi. Si chiama Donny McCaslin, formidabile sassofonista, la band pure è eccellente. Nuovo album per lui intitolato Beyond Now. Il brano è Glory. Attenzione, qui allacciatevi le cinture di sicurezza, perché qui sono sicuro che mio padre inizierà a scalpitare dopo poche battute. Arriva la telefonata, sicuro. Ecco. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Dark Territory è il titolo del nuovo album del trombettista Dave Douglas. Io l'ho trovato molto interessante, certamente è dark proprio nell'impostazione, negli arrangiamenti, nelle composizioni, però c'è un utilizzo molto intelligente dell'elettronica che forse non mi aspettavo da Dave Douglas, che è un trombettista che è legato alla tradizione, anche se poi è un musicista contemporaneo. Sì, l'elettronica è curata da Shigeto, che è un DJ molto famoso, lo ascoltato anche allo Spring Attitude un paio d'anni fa, però questo disco di Dave Douglas e questo progetto è praticamente il doppio di The Like Risk, ovvero sono gli stessi membri che ripropongono un sound molto più live rispetto al precedente progetto. C'è anche Mark Guiliana, tra l'altro me l'hanno segnalato come uno dei live più belli dell'estate alla Casa del Jazz. Purtroppo io non sono riuscito ad andarci, ma era sicuramente uno dei concerti che io volevo assolutamente vedere, ma poi sono arrivate le vacanze, quella settimana di vacanze che sono riuscito a fare, quindi sono andato fuori Roma e non sono riuscito a vederli. Allora, siamo in chiusura qui al Soundcheck, ci risentiamo senz'altro per la vigilia di Natale, quindi sabato prossimo. Papà ha mandato subito un messaggino che ci sarà, confermato, porterà i suoi CD preferiti con tutte le canzoni di Natale e naturalmente porterà anche un bel cartone di prodotti tipici. Di prodotti tipici locali per passare nel migliore dei modi un Natale all'insegna anche dell'arte culinaria. Beh, non vedo l'ora di assaggiare tutto. Chiudiamo con Arturo O'Farrell, che sta spopolando a New York nell'ambiente latino con la sua Afro Latin Jazz Orchestra, una super band nella quale ogni tanto si incontrano musicisti di chiara fama. Eh sì, poi loro praticamente occupano tutti i club di New York, nel senso che suonano una settimana sì, una settimana no, in tutti i club jazz di New York. E quindi la conversazione continua, questo è il titolo tradotto in italiano dell'album di Arturo O'Farrell con la sua Afro Latin Jazz Orchestra, e anche qui c'è un bel ascolto da fare. Eh sì, qui ritmicamente sono anche molto New Orleans, c'è anche molto second line, si sente band, questa è una band che io vorrei vedere dal vivo. Eh sì, assolutamente, perché sono veramente fortissimi. Tra l'altro, forse questo qua è il brano più facile da ascoltare di tutta l'ho scelto apposta, se no veramente rischiavamo il licenziamento. Sì. Francesco, ci sentiamo sabato prossimo con il Soundcheck qui su Radio 24, ma mercoledì alle 21:15 su Rai 5 cosa c'è? Variazioni su tema, puntata anche questa da non perdere, mi raccomando. Grazie a tutti, a presto.